è andato molto bene, anche direi in maniera molto superiore alle aspettative e alle speranze di tutti, sia nostre che dei nostri detrattori, diciamo, nel senso che hanno partecipato più di 1800 lavoratori, insomma abbiamo raggiunto una quota pari al 44%, una cosa simile, contando che nel comune di Bologna l'unico, cioè il voto diciamo che più si è avvicinato ha riguardato 850 dipendenti del voto referendario, dove c'erano tutti i sindacati, noi compresi, qualche anno fa. Da allora sostanzialmente non ci sono stati referendum tra i dipendenti comunali. L'abbiamo fatto in un momento particolare, quindi con lo smart working e con molte persone che non erano nei luoghi di lavoro, e soprattutto l'abbiamo fatto con un sindaco che, per non smentirsi, Merola, ci ha impedito di svolgerlo con gli strumenti che prevede il contratto nazionale, quindi abbiamo dovuto fare tutto su base volontaria, con circa una novantina di lavoratori volontari che chi più chi meno ha dato una disponibilità appunto per far girare le urne, per portare i fogli firma e quant'altro. Non abbiamo avuto né spazi, diciamo, dati dal comune, né informazioni dipendenti, né i lavoratori avevano il tempo previsto a contratto per venire a votare, quindi insomma l'abbiamo fatto in queste condizioni, ma ci è andato molto molto bene, insomma. Infatti praticamente è stato un plebiscito, perché il 97,3% dei lavoratori, delle lavoratrici, ha detto che vuole più democrazia sindacale. Sì, ha detto, diciamo, in particolare due cose in particolare. Uno, che alle contrattazioni siano ammessi tutti i sindacati che hanno eletto i propri rappresentanti dentro alle rappresentanze sindacali unitarie, cioè ogni 3 anni c'è questo voto, no? Dei dipendenti comunali. Noi siamo secondo sindacato in quel comune ormai da tanto tempo. La seconda cosa che ha chiesto è che, oltre che alla contrattazione, tutti questi, chi è stato eletto per loro, possa avere la possibilità, come prevede il contratto nazionale, di indire assemblea sindacale un orario di lavoro per quelle 12 ore che il contratto prevede individualmente, insomma, cosa che a noi viene negata ed è stata negata a noi da Merola, e solo da Merola, da Vitali in poi, è stato l'unico che ha deciso di stracciare il protocollo di relazioni sindacali firmato con noi e quindi di impedire a chi, tutti i sindacati, ad eccezione di CGIL e CISL e UIL, di libertà democratica, insomma. E probabilmente, dico, con il tentativo di ridurre la nostra adesione, le adesioni dei lavoratori alla nostra organizzazione, il referendum mi sembra che dimostri il contrario, insomma. Certo, ecco, Merola però lascia Palazzo da Curzio, entra Matteo Lepore e già a lui vi siete rivolti. Sì, su questo vorrei anche dirvi una cosa che magari noi non l'abbiamo scritta nei comunicati. Noi abbiamo sostanzialmente incontrato grandissima parte dei candidati a sindaci, dei capoliste e quant'altro. Abbiamo incontrato anche Lepore, però nel momento in cui faceva le primarie, insomma, con la Conti, no? Per capirci. E gli abbiamo posto chiaramente questa questione e lui sembrava che, insomma, fosse aperto a una soluzione, che era poi quella di ripristinare i diritti negati, insomma, che erano stati tolti. Dopodiché aveva previsto un suo interessamento, poi dopodiché invece non è successo assolutamente nulla. Tutti gli altri, però, anche coloro che, leggendo i quotidiani, mi sembra che entreranno in giunta, anche tra coloro che entreranno in giunta, hanno accettato il nostro invito anche a votare anche loro, ma pubblicamente, diciamo, sullo stesso quesito che è stato proposto ai dipendenti comunali, e tutti hanno votato sì. Quindi teoricamente noi avremo tanti amici della democrazia dentro al prossimo consiglio comunale. Spero, come dire, che non sia stato solo un elemento così di propaganda elettorale, ecco. Quindi, insomma, voi chiedete al nuovo sindaco, alla nuova giunta, insomma alla nuova amministrazione, di ripristinare i diritti sindacali, appunto, dei sindacati, sì, di base, e questo può avvenire attraverso un accordo? Sì, questo può avvenire, come per esempio in Regione Emilia-Romagna, che ha lo stesso contratto, le stesse leggi, le stesse normative e quant'altro. Noi non siamo esclusi dalla contrattazione come invece fa Merola. Tanto per dire una cosa importante, diciamo, una contrattazione importante dalla quale ci escludono è quella delle modalità di rientro dal 15 ottobre, no? Quando finirà lo smart working straordinario, diciamo, e quando entrerà in vigore il Green Pass. Quindi questione non da poco, perché come viene gestito questo passaggio non è indifferente rispetto alla vita dei 4.000 dipendenti comunali. Quindi Su questa materia, ad esempio, siamo esclusi. C'è il 7 ci sarà questo incontro. Noi abbiamo già scritto anche all'Epore dicendogli semplicemente che se lui non ci chiama, noi andremo lo stesso, perché la pazienza, come si dice, ha un limite, quindi devono necessariamente pronunciarsi. E stessa cosa vale per l'assemblea. Noi anche con Bonaccini le assemblee le abbiamo sempre avuto, nessuno ha avuto mai l'idea di cancellarcela, ecco. Invece qua è successo.